fare il cantato, così intanto so, sente l'ello come che si fa. Senza che tu dentro me, che mi senza che tu non hai, e per questo non cambierà. Sai cos'è la dignità? Non lo so, forse non sarebbe finita così. E quell'essenza di nobiltà che la natura ha scolpito in noi. Abbiamo di noi stessi, del nostro corpo e della vita, e ciò che ho cercato di conquistare e di mantenere. Un'essenza che è dentro noi, ha un'essenza che tu non hai, e per questo non cambierà. Lo sai, tu non l'hai cercata mai, tu non l'hai voluta mai, e per questo non cambierà. Thank you. solo gli errori ormai commessi diventeranno ignobili ricordi. Oggi riusciremo a cancellare un pezzo di vita. Sicuro del mio stile di vita, sono solo un amore svanito col vento, un amore tra